E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda il fronte italiano, ne parleremo subito in apertura, quindi via libera del governo anche a quelle che sono misure a favore delle piccole e medie imprese. Mi riferisco soprattutto alla moratoria sui debiti. In realtà si è molto parlato di economia nel corso della conferenza stampa sia del Presidente del Consiglio Berlusconi che del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti questa mattina a Palazzo Chigi. Già i nostri GR vi hanno anticipato i punti principali e comunque ne parleremo in apertura. Nel giorno in cui è passato comunque il decreto mille proroghe, è passato nel senso che è arrivata l'approvazione, poi l'iter del decreto è ancora lungo, nel senso che il Senato ha dato la fiducia, il disegno di legge ritorna alla Camera, passa all'esame della Camera. Hanno votato a favore PDL, Lega, Nord, contro il Terzo Polo, il PD, l'Italia dei Valori e il Movimento per le Autonomie. E questo è il tema di apertura, poi passeremo come sempre alla Borsa, Borsa che va bene a Milano più che altrove, grazie soprattutto e ancora una volta alle banche. Il Banco Popolare guadagna il 4,80%, la Popolare di Milano guadagna il 4,40%, Unicredit il 3,90%, UbiBanca il 3,80%, Intesa San Paolo il 3,5%, come Monte dei Paschi. Poi di non bancario c'è ST Microelectronics più 2,4%, Ansaldo STS più 2,1%, Mediolanum più 2%. Bene comunque tutte le banche, siccome pesano molto sul nostro indice, non deve sorprendere che Milano guadagni l'1,40% appunto, mentre Francoforte limiti il suo rialzo allo 0,40%, Londra in questo momento più 0,90%, l'America più 0,50%. Euro su dollaro a quota 1,35, dopodiché parleremo di quote rosa. Perché? Perché c'è stata una posizione presa da Confindustria, dall'ABI e dall'ANIA, quindi industriali, banche e compagnie di assicurazione, che mettono in evidenza o pongono l'accento sui rischi che il decreto che è in discussione al Parlamento, quello che obbligherebbe a portare le quote rosa dentro i consigli di amministrazione almeno al 30%, beh, i rischi e le distorsioni che questo decreto può causare. In realtà chi sostiene il decreto dice non si può trovare un altro modo per obbligare questo paese ad alzare la quota di donne dentro i consigli di amministrazione, dentro le stanze dei bottoni, come si chiamano in generale, senza una forzatura, perché è chiaro che è una forzatura chiedere il 30% di quota rosa comunque in qualunque consiglio di amministrazione. Senza questa forzatura non si riesce a fare un salto al paese che è agli ultimi posti nelle classifiche europee e non solo quanto a presenza delle donne non nel mercato del lavoro ma nei luoghi di comando dentro le società. Due opinioni diverse, le ascolteremo. È chiaro che si tratta comunque di un elemento, o si tratterebbe comunque di un elemento non meritocratico, perché uno si siede in un consiglio di amministrazione o dovrebbe sedersi in un consiglio di amministrazione per le sue capacità, non per la sua appartenenza di sesso o di razza o quant'altro, però è una forzatura ritenuta indispensabile da chi sottolinea appunto l'arretratezza italiana, il maschilismo, mettiamola così, imperante anche nei consigli di amministrazione e nei ruoli alti dentro le società e le imprese. Infine, nella seconda ora del programma ci occuperemo anche di Egitto, perché abbiamo intervistato oggi Sawiris, che è il fratello del più noto Nawi Sawiris, la famiglia più importante che c'è in Egitto, la famiglia più importante che c'è in Africa quanto a capitale, sono ai primi posti nelle classifiche africane quanto a ricchezza. Orascom è quella che conquistò con una scalata che costò 12 miliardi al tempo il gruppo Wind. Il fratello si occupa di investimenti immobiliari, ma gli abbiamo chiesto soprattutto un giudizio economico e finanziario sulla situazione in Egitto, sulla borsa egiziana e anche su quello che potrebbe capitare in Egitto nei prossimi mesi, anche dal punto di vista di chi deve fare investimenti in Egitto o dall'Egitto verso l'esterno. 349-238-6666 per i vostri SMS. Andiamo avanti con notizie in breve. Volete sapere delle quote latte? Sì, è passato dentro il decreto mille proroghe anche il decreto va adesso alla Camera, però è passato anche l'emendamento dei 6 mesi di slittamento per il pagamento delle quote latte. Non sono più 30 milioni, come ieri abbiamo ricordato in diretta, i soldi che verranno sottratti alla fascia C, e quindi servizi per la famiglia, politiche per la famiglia, sono solo 5 milioni, e questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che questi 5 milioni verranno levati dalle politiche per il territorio e anche dai fondi che servono alle varie regioni per l'assistenza ai malati di cancro, quindi la parte oncologica. Questa non è una bella notizia. Sapete, abbiamo avuto una lunga discussione ieri con un rappresentante di Cobas del Latte, che siamo assolutamente contrari a ogni tipo di così grazia o in qualche modo sanatoria o ulteriore dilazione nel pagamento di questi 550 allevatori che non fanno come gli altri loro colleghi e quindi continuano a sforare, ritenendo di aver ragione, a sforare le quote latte. Non torneremo però più su questo tema, già abbiamo dato. Andiamo subito con le notizie in breve. Allora, i mercati, dicevamo, chi va male oggi? Ma Finmeccanica perde qualcosa, l'1,1%, Prysmian l'1,1%, Fiat l'1%. Oro in calo a 1.373 dollari l'once, petrolio fermo a 84 dollari a New York. In tema di petrolio però, oggi i conti dell'Eni. Ebbene, l'Eni ha chiuso il 2010 con un utile netto di 6 miliardi e 320 milioni di euro, un aumento del 44,7%, e praticamente nel quarto trimestre dell'anno l'utile è salito del 40%, ma soprattutto ha proposto un dividendo di 1 euro ad azione, di cui ricordo che 50 centesimi sono già stati distribuiti come acconto. La futura presidenza della Banca Centrale Europea. Allora, qui i giochi chiaramente si fanno anche guardando a quello che deciderà la Germania. Allora, oggi la Germania, per voce del cancelliere tedesco Angela Merkel, ha annunciato che il governo proporrà come presidente della Banca Centrale Tedesca, della Bundesbank, il nome di Hans Widmann. Ma secondo il quotidiano Die Welt, la Germania rinuncerà a proporre un candidato tedesco alla presidenza della Banca Centrale Europea, ossia l'attuale capo economista Jürgen Stark rimarrà al suo posto, non dovrebbe essere candidato da Berlino. È tramontata, o sembrerebbe tramontata, anche la candidatura lussemburghese, che poteva essere, secondo molti osservatori, quella appoggiata da Berlino, e mi riferisco al governatore della Banca Centrale del Lussemburgo Yves Mersch. È già uscito di scena il nome di Axel Weber, che è attualmente il numero uno della Banca Centrale Tedesca, della Bundesbank, e quindi, diciamo, usando tutti gli strumenti della scaramanzia o che la scaramanzia ci mette a disposizione, questa è una buona notizia per la candidatura di Mario Draghi a presidente della Banca Centrale Europea. Oggi a un giornalista che ha chiesto a Berlusconi se le sue vicende giudiziarie possono influenzare in senso negativo chiaramente la candidatura di Mario Draghi alla presidenza della Banca Centrale Europea, Berlusconi ha risposto: lei non è compos sui, vada a farselo tradurre, semplicemente vuol dire non è padrona di se stessa. E insomma, quindi, frase molto lapidaria, nega Berlusconi che le vicende giudiziarie possono indebolire la candidatura di Mario Draghi. Mille proroghe, sì, del Senato appunto alla fiducia, il disegno di legge è passato alla Camera. L'abbiamo chiamata la bottega degli orrori. Vediamo di capirci, non ci sono solo orrori in questo mille proroghe, ci sono due o tre cose che a nostro avviso gridano vendetta. Ve le ricordo ancora per l'ultima volta, però la sospensione dei termini per le demolizioni di costruzioni abusive in Campania. Insomma, 65.000 edifici abusivi, per cui esiste già, abbiamo ricevuto molte email, esiste già una sentenza in giudicato che dispone l'abbattimento. E questi 65.000 edifici sono il 20% di tutti gli edifici abusivi, molti dei quali sono costruiti in zone archeologiche o zone, diciamo, dove esiste il vincolo delle belle arti, e quindi non si capisce perché sospendere le demolizioni in Campania sine die, perché non c'è una data, non sono sospese per 6 mesi, per cui è chiaramente una valutazione politica verso il corpo elettorale della Campania, perché è chiaro che 65.000 abitazioni sono 65.000 famiglie, e quindi 120.000 voti, una cosa del genere. Poi il numero degli assessori delle città di oltre 1 milione di abitanti, il limite da 12 assessori viene portato a 15 assessori, oggettivamente non se ne sentiva questo gran bisogno. E poi ancora il dato sull'elemento sulle quote latte di cui spesso abbiamo parlato, e quindi la proroga di 6 mesi al pagamento delle multe delle quote latte, 5 milioni di euro che vengono sottratti anche ai fondi per l'assistenza ai malati di cancro. C'è però oggi una buona notizia, perché ce l'ha data il presidente dell'INPS Mastro Pasqua, l'ha data la nostra Valeria De Rosa. La buona notizia è la seguente: l'INPS ha revocato il 23% delle pensioni di invalidità, avendo riscontrato l'assenza di giustificazioni per queste pensioni di invalidità. E allora il record della cancellazione a Sassari: il 76% delle pensioni di invalidità sono risultate senza giustificazioni, a Milano solo il 3%, e questo conferma quelli che possono sembrare luoghi comuni, anche perché a Napoli le pensioni revocate sono state il 55% di quelle controllate, cioè una su due. Sentiamo il presidente dell'INPS Mastro Pasqua, intervistato appunto dalla nostra Valeria De Rosa. Il programma di verifiche straordinarie del 2010 ovviamente ha preso spunto dai risultati del 2009, quindi c'è stata una maggiore capacità dell'istituto di andare a selezionare un campione più mirato, quindi si è andato sia per fasce di età che per localizzazioni, e questo qui ovviamente ha fatto sì che con meno controlli del 2009 la percentuale si è quasi raddoppiata. Voi non volete parlare di falsi invalidi? Ma guardi, io non ho mai parlato di falsi invalidi e non ne parlerò mai. Io ritengo che ci sia per tutte quante le cose un'epoca, oggi è finita un'epoca nella quale forse le ASL, le regioni, tutti quanti i soggetti erano un po' più generosi. Oggi noi siamo per la tutela dei veri invalidi, per dare la certezza di tempi e di prestazione ai veri invalidi. A proposito di tempi, ci sono dei tempi abbastanza lunghi certe volte per le liquidazioni, e per alcuni soggetti le difficoltà sono davvero tante. Io ho chiesto scusa su Corriere della Sera, lo chiedo anche attraverso di voi. Noi abbiamo trovato una situazione dove c'era solamente la carta, ci sono state scaricate interi vagoni di cose che andavano smaltite. Il 2010 abbiamo quasi del tutto smaltito tutto l'arretrato, nel 2011 speriamo di andare a regime. Vabbè, ogni tanto un gallo ci vuole, no? Insomma, è una buona notizia, non vedo come altrimenti definirla. Il fatto che vengano scoperti, non li vuole chiamare falsi invalidi, avrà anche ragione Mastro Pasqua, ma insomma, che vengano revocate pensioni di invalidità per chi non ha fornito le giustificazioni. Va anche detto che FISH, che è la Federazione Italiana Superamento Handicap, dice: è vero che ci sono grandi sacchi di furbi, ma l'INPS dimentica di dire che ha cambiato le regole in corsa, modificando i criteri per il riconoscimento delle indennità di accompagnamento, e per questo ci sono numerosissimi ricorsi contro l'INPS. Adesso torniamo a palla sulla cronaca di oggi, quindi la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Berlusconi e del Ministro dell'Economia Tremonti sui temi dell'economia. Vedo numerose domande, vi arriveremo anche alle quote rosa. Non capisco due cose, me lo dico senza polemica. Dunque, l'unica bottega degli orrori è il vostro, immagino il mio qualunquismo di sinistra. E poi ce n'era un'altra carina, ecco, classico servilismo sinistroide che ossequia i miliardari del mondo, attacca la Lega perché glielo ordina il partito. Io non ho capito veramente niente di questo messaggio, cioè qual è il partito che me lo ordina, quali sono i miliardari del mondo che ossequiamo, Sawiris perché gli abbiamo chiesto com'è la situazione in Egitto. Poche idee ma confuse, abbia pazienza. Andiamo avanti invece. Berlusconi, per tenere i conti in ordine, continueremo a fare il nostro lavoro a livello di politica economica. Poi ha aggiunto sempre Berlusconi: il debito pubblico frena la nostra crescita, paghiamo 5 punti di interessi passivi all'anno, questa non è una novità. E poi ha dato la colpa al ritardo nelle infrastrutture agli ecologisti di sinistra. Quando leggo alcuni articoli di validi opinionisti che si lamentano come il nostro paese sia cresciuto nel 2010 soltanto dell'1,1%, fanno per esempio il paragone con la Francia, cresciuta dell'1,5%. Bene, io vorrei ricordare a tutti che noi abbiamo una situazione ereditata dal passato che sinteticamente porta il debito pubblico più elevato d'Europa, terzo debito pubblico del mondo, che ci costa 5 punti di PIL in interessi passivi tutti gli anni. I governi precedenti erano riusciti a moltiplicare per 8 il debito pubblico dal 1980 al 1992. Questo debito pubblico ha fatto mancare i fondi per realizzare le infrastrutture, a cui si è aggiunta la difficoltà non solo della nostra burocrazia, ma anche di tutti gli ecologisti di sinistra. E quindi noi abbiamo il 50% di infrastrutture in meno rispetto alla Francia e alla Germania, paesi con cui siamo in concorrenza. Io l'altro ieri mattina, per arrivare da casa mia all'aeroporto, ho impiegato 1 ora e 40 minuti. Così il Presidente del Consiglio. Ora è innegabile che anche tutto l'ecologismo di questi anni abbia rallentato la costruzione delle opere pubbliche, lo dico senza nessun giudizio di valore, come dato di fatto, ma non mi riferisco solo alla No TAV, ma anche, è anche vero, però lo abbiamo raccontato in questi anni parlando non con politici marxisti, ma parlando con i costruttori, quindi con l'ANCE, che in questo momento le opere pubbliche sono bloccate perché il CIPE, diciamo, vengono predisposti i soldi per le opere pubbliche. Però se poi non vengono sbloccate dal CIPE, ossia da Tremonti, questi soldi restano sulla carta. Allora se andate a vedere quanta parte di questi soldi viene poi effettivamente resa disponibile, vi accorgete che sono meno di un quinto dei miliardi deliberati in opere pubbliche. Anche lì c'è chi dice Tremonti preferisce tenere i soldi in cassa e aspettare di vedere che si calmi completamente la buriana sui mercati e il rischio di attacchi ai debiti sovrani prima di utilizzarli. Personalmente penso che Tremonti abbia anche ragione, ma questo chi se ne frega di quello che penso io. Poi c'è chi scrive: dai Berlusconi, lei è del PD, lo sanno tutti. Beh, adesso che lei lo scrive lo so anch'io. E invece andiamo avanti, perché Berlusconi ha detto che il governo ha sostenuto le nostre imprese all'estero e che è notevole stato anche il lavoro della nostra diplomazia commerciale. Le riforme sono bloccate da statalisti finiani e che siamo saliti di colpo al secondo posto in Europa dopo la Germania e abbiamo evitato di incorrere in sanzioni quanto a debito pubblico italiano. Tremonti poi ha fatto notare che la crescita in altri paesi è molto drogata dalla finanza e il dato di ieri sul PIL all'1,1% nel 2010 è in linea con le previsioni. E poi ha detto: siamo adesso in una fase diversa della crisi, ragioniamo assieme su come individuare gli elementi per la crescita insieme però alla tenuta dei conti pubblici. Adesso abbiamo questa fase di prospettiva di attività meno bloccata dalla paura, dalle preoccupazioni sui debiti, sul debito italiano, possiamo, mantenendo quegli impegni, e proprio perché manteniamo l'impegno alla disciplina di bilancio, dobbiamo guardare alla crescita. Noi cresciamo quest'anno, ultimi dati 2010, all'1,1%, per inciso perfettamente allineato alle previsioni del governo. Vi aggiungo, casualmente, perché fare le previsioni allo 0,1 su questi grandi numeri è abbastanza casuale. Tuttavia, guarda caso 1,1. E meno degli altri paesi, come sono cresciuti gli altri paesi? In parte è vero, ma non dimenticate, su questo aiutateci, perché aiutate non il governo, ma il vostro paese. Negli ultimi 10 anni moltissimi paesi sono cresciuti molto, ma drogati dalla finanza. E adesso stanno scendendo o risalendo le valli che avevano baldanzosamente percorso con le carte di credito, con le bolle immobiliari, con le leve finanziarie, con gli hedge fund, con gli equity fund, con tutta la finanza privata. Avranno una drastica riduzione del loro tenore di vita e del loro prodotto interno lordo, che non è più drogato dalla finanza privata. Sentiamo anche che cosa è stato deciso oggi di proroga in sostanza della moratoria per le piccole e medie imprese. 349-238-6666 per i vostri sms. È una proroga, ma non del tutto, e vi spiego perché. Perché per le imprese che non hanno ancora usufruito della moratoria sui mutui, sui finanziamenti, ci saranno altri 6 mesi di tempo per farlo, quindi fino al 31 luglio 2011 si allarga quindi il tempo per altre imprese oltre le 190.000 che hanno già aderito per partecipare e sottoscrivere la moratoria. Chi invece ne ha già usufruito, quindi le 190.000 imprese che citavamo, possono e potranno ottenere l'allungamento di 2 o 3 anni della durata del mutuo per cui erano stati sospesi i pagamenti. Per le imprese che invece scelgono l'allungamento sarà possibile chiedere alla banca di avere a disposizione uno strumento finanziario per la copertura del rischio aumento dei tassi e poi predisposti nuovi finanziamenti per le imprese che intendono rafforzare il patrimonio. È uno dei punti di debolezza del nostro sistema di imprese: basso patrimonio e scarsa capitalizzazione. Ebbene, predisposti nuovi finanziamenti, non ho capito però quali, non ho capito nel senso che proprio non lo so e non è stato chiarito. Comunque, il ministro Tremonti ha detto che abbiamo continuato con un'idea del governo che già ha funzionato, ossia aprire il canale di finanziamento per le imprese. E sono cose importanti sia la firma della proroga che l'approvazione del mille proroghe al Senato. Emma Marcegaglia, presidente Confindustria, ha detto insomma un passaggio e un accordo fondamentale. È un accordo al quale noi diamo un'importanza fondamentale. Questo accordo è fatto di alcuni punti importanti che vi dico brevemente. Con questo nuovo accordo noi proroghiamo di ulteriori 6 mesi la possibilità delle piccole e medie imprese di accedere a questo tipo di moratoria. Il secondo elemento che è stato aggiunto in questo accordo dice questo, dice che per i mutui che sono già stati oggetto di moratoria, per imprese sane, quindi imprese che non hanno incagli o procedure diciamo di concordato, quindi tutto questo sono diciamo strumenti non a favore di imprese decotte, ma sono come dire strumenti a favore di imprese con qualche difficoltà ma capaci, quindi su questo c'è la possibilità di avere un'ulteriore proroga di 2 anni o di 3 anni a seconda che siano mutui diciamo con garanzia, e questo è molto importante. Il terzo elemento che c'è una copertura del rischio di tasso molto semplice e il tasso rimane lo stesso se c'è una copertura del fondo di garanzia. Ultimo aspetto molto importante per noi: c'è anche un accordo che dice che se un'impresa aumenta il proprio capitale, le banche seguono a loro volta con finanziamenti che sono un multiplo dell'aumento di capitale. Quindi, e chiudo, uno strumento molto importante che aiuterà l'impresa in questo momento di uscita dalla crisi, ma ancora complicato, e noi ci aspettiamo un'altra ulteriore massiccia adesione a questo aspetto, a questo strumento. E Ed è indubbio, anche qui è un'osservazione non di carattere politico, è indubbio che lo strumento serva a transitare, a traghettare le imprese sane, ma con problemi di pagamento di interessi e di ritorno dei crediti ottenuti, dicevo, serve a traghettarle verso la parte migliore, insomma. E quindi 2011-2012, certo, se un'impresa non è sana, non ce la fa a stare sul mercato, non c'è moratoria che tenga, ma non c'è neanche santo che tenga, attenzione, ne abbiamo parlato decine di volte in questo programma. Alcuni fanno notare invece, in merito alle dichiarazioni di Berlusconi, che anche Francia e Germania hanno i partiti ecologisti di sinistra, eppure le grandi opere le fanno. Ma guardate, sono due aspetti un po' diversi, cioè un conto è l'analisi storica, ed è vero che da noi, insomma, i Verdi hanno spesso ostacolato tutto, non solo alcune opere. È anche vero, lo ripeto, che negli ultimi 2-3 anni le grandi opere, 2 anni, non si sono fatte, non per colpa dei Verdi, che sono anche scomparsi politicamente, ma perché i soldi non sono stati fisicamente erogati. Ripeto, lo dicono i costruttori italiani, non lo dicono, diciamo, dei bolscevichi scesi dalla steppa. Su. Musseri, Giuseppe Musseri, presidente dell'ABI, soddisfatto, quindi le banche italiane, soddisfatto per la moratoria, e ricorda essere unico strumento di questo tipo a livello europeo. La prima moratoria è servita a guadagnare tempo a chi, colpito da questa caduta verticale, aveva tutti i numeri per poter continuare ad andare avanti. Oggi, all'esito della scadenza più importante, il ragionamento qual è stato? Uno, capire se ci sono altri che hanno bisogno della moratoria e quindi riaprirla per 6 mesi a chi non ne ha goduto. La seconda, chi ne ha goduto ma può avere ancora delle tensioni di liquidità, allungargli per un massimo di 3 anni il mutuo, quindi l'impiego che ha. Dentro ci abbiamo messo l'eventuale garanzia del fondo di garanzia, una raccolta attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, la possibilità di coprire queste imprese dal rialzo dei tassi e quindi uno strumento di copertura lineare strettamente correlato all'operazione di finanziamento non speculativo e non dannoso, e principalmente abbiamo confermato e rafforzato l'idea che in questo Paese, se le parti sociali si siedono intorno a un tavolo, trovano un ambiente confortevole, attento e collaborativo da parte del Ministero dell'Economia, in questo caso sono in grado di affrontare situazioni di emergenza gravi con risultati significativi, senza avere epigoni in Europa, perché questo lavoro che abbiamo fatto noi in nessun altro paese europeo è stato fatto. Così appunto il presidente dell'ABI Giuseppe Musseri. Attenzione che questa moratoria vale per le imprese, cioè imprese associate in Confindustria, imprese agricole, imprese dei servizi, artigiani, commercianti, non vale per i singoli. Vedo che alcuni scrivono: ma vale anche per il mio mutuo? No, non è questa l'iniziativa sui mutui. Comunque sentiamo proprio chi rappresenta i piccoli, piccolissimi, quindi Confartigianato, CNA, Casa Artigiani, Confcommercio, Confesercenti, tutti riuniti sotto il raggruppamento Rete Imprese per l'Italia. Giorgio Guerrini, presidente. Anche per Rete Imprese Italia questo è un accordo molto importante, perché non solo per le 190.000 PMI che lo hanno utilizzato e che è stata una fondamentale occasione di rimanere sul mercato, ma anche perché segna un, diciamo, nuovo e positivo rapporto tra il sistema delle banche del credito e il sistema delle imprese, soprattutto quelle territoriali, quelle di piccole e di medie dimensioni, che nel bel mezzo della crisi aveva forse toccato il punto più basso. Allora, adesso entriamo in un tema che invece nulla c'entra con questo, ed è il tema delle quote rosa. Dopo il via libera della Camera alla proposta di legge sulle quote femminili, ora è all'esame del Senato il disegno di legge, quello del 30% delle donne nei consigli di amministrazione. Lo facciamo fra un attimo, perché prima la borsa. Devo dire che a me anche così stuzzicano delle volte di più i commenti critici. E i commenti poi domande, diciamo. Certo che vedete che qualcuno scrive: il dio denaro le ha bruciato, Barisoni, quei 2 neuroni che le erano rimasti, lei parla solo di soldi. Lo so, lo pensa anche l'amministratore delegato della radio, no? Il punto è che è un programma che si chiama Focus Economia, si parla anche di soldi. Sui due neuroni la devo ringraziare, è troppo gentile, sono almeno la metà i neuroni rimasti da sottoscritto, ecco perché mi faccio aiutare per parlare di finanza e quindi anche di soldi, da Livia Zancaner, che invece di neuroni ne molti più di me, Radio Corri sulle 24 ore. Livia, buonasera. Buonasera. Allora, poi mi verrà anche una battuta sulle quote rosa, visto che sei donna e quindi il prossimo tema è questo. La borsa più 1,51%, molto bene tutti i bancari a Milano, meglio che nel resto d'Europa, o comunque da noi pesano di più. Il Banco Popolare fa il botto, più 5,30%. Sì, allora diciamo che anche oggi i listini sono stati trainati dalla buona performance delle banche, che hanno guadagnato il 2,7% in Europa. Quindi a Milano, come ieri, anche oggi sono andate molto bene le banche, quindi Banco Popolare, UBI, BPM, Unicredit, Intesa San Paolo e MPS. Quindi nel dettaglio le banche hanno beneficiato da una parte del balzo di Société Générale a Parigi, che ha mostrato nel quarto trimestre 2010 un risultato netto a 3,9 miliardi dai 678 milioni dell'anno precedente. Dall'altra parte, in particolare, le azioni degli istituti italiani hanno beneficiato ancora dell'emendamento al mille proroghe che punta a migliorare la patrimonializzazione degli istituti di credito in vista dell'entrata in vigore di Basilea 3, quindi la stessa motivazione di ieri. E infatti i rialzi, devo dire, non sono solo sul Banco Popolare, che è il migliore, più 5,30, ma molto forte UBI Banca, più 4,80, la Popolare di Milano più 4,60, Unicredito più 3,90, Intesa San Paolo più 3,70, Monte dei Paschi più 3,60%. Devo dire che sono quasi tutte le banche, quindi andare molto molto bene, non ne vedo nessuna di negativa tra quelle maggiori. Ci chiedono gli ascoltatori se sul mondo bancario hanno pesato anche alcune indiscrezioni di stampa, ipotesi per cui in seguito a un eventuale e tutto da dimostrare disimpegno di BNL Paribas di BNP Paribas dentro BNL, potrebbero rafforzarsi le ipotesi di un matrimonio tra Monte dei Paschi e BNL. Ma in linea di massima, da quello che ho sentito io sul mercato, questo oggi non ha influenzato l'andamento delle banche, perché comunque hanno chiuso tutte in rialzo, quindi si può darsi magari un effetto traino, ma credo marginale, più che altro comparto bancario, Société Générale, conti di Barclays ieri. Allora, ancora sui titoli, Eni, abbiamo detto, utile netto a 6 miliardi e 320 milioni, il più 44%, e festeggiano, oltre che gli azionisti Eni, il principale azionista dell'Eni, che è il Tesoro, e il dividendo sarà 1 euro per azione. Il titolo in borsa, Livia? No, il titolo poco non mosso, eh? Sì, poco mosso, infatti ha più 0,11. Sì, è stato sulla parità per quasi tutta la seduta. Ansaldo si è aggiudicato i lavori sulla Torino-Padova, Ansaldo STS, immagino che sia questo il motivo del movimento, più 2,1? Sì, è stata questa la regione del movimento. Bisogna segnalare che invece la controllante Finmeccanica ha chiuso con un ribasso dell'1,09%, quindi non ha beneficiato la notizia come la controllata. Fiat Auto perde lo 0,90%, qui la notizia la posso dare anch'io, nel senso che il mercato europeo ha fatto meno 1,1% a gennaio, Fiat però ha perso molto di più, meno 20% a gennaio. Olivia? Sì, infatti il titolo ha risentito di questo, quindi dei cattivi dati negativi sulle matricolazioni e anche in realtà della debolezza del comparto auto in Europa, in scia alla tedesca Daimler, che infatti ha chiuso in calo, ha mostrato un risultato positivo per 1,14 miliardi, ma sotto le attese in realtà degli analisti nel quarto trimestre. Ancora, i migliori e i peggiori, Meridiana Fly, sempre sull'ipotesi all'Italia, Lufthansa, più 18,7%, mamma che botto in sti giorni, Investimento e Sviluppo, più 9,15, Geox, più 6,40, Banca Finat, più 7,20, Oridata, meno 5,37%, AF, meno 5,20, RCS, il gruppo Corriere della Sera, Rizzoli, oggi si è riunito il patto, Olivia. Sì, allora il titolo ha chiuso in rialzo, appunto beneficiando della riunione del patto di oggi. I volumi sono stati molto forti e appunto stamattina si è tenuta la riunione, che era un incontro molto atteso dopo i recenti contrasti tra i soci, soprattutto Diego Della Valle, patron della TOZ, e presidente delle Generali Cesare Geronzi. Dopo la riunione è stato pubblicato un comunicato con cui i partecipanti al patto hanno confermato all'unanimità la centralità, quindi, del consiglio di amministrazione nel prendere le decisioni sulla società e il sostegno al direttore De Bortoli. Allora, Livia Zancanelli, tu sei a favore delle quote rosa? Sì, io assolutamente sì. Prodomo tua, però anche nei consigli di amministrazione? Sì, secondo me sì, perché credo che le donne abbiano una forte capacità di iniziativa e di organizzazione. Allora adesso oh, non ti allargare, volevo sapere sì o no. Sì, sei. Sì. Ecco, no, perché i comizi dall'altra parte, il dibattito no, come si diceva una volta. No, te lo dico anche perché c'è chi suggerisce di iniziare subito con le quote rose, di mettere te al posto mio in conduzione. Io sono apertissimo, siamo tutti sul mercato. Intanto grazie a Livia Zancaner, Radio Cori Sole 24 Ore. Grazie a voi, arrivederci. Allora, disclaimer iniziale, precisazione iniziale. Questo gruppo è guidato da un amministratore delegato donna, la radio è guidata da un amministratore delegato donna, la Confindustria è guidata da una donna, i giovani di Confindustria sono guidati da una donna. Dopodiché, questo non vuole ovviare il tema, c'è una legge su cui invece la stessa Confindustria si è detta molto scettica assieme all'ABI e all'ANIA, cioè hanno detto che vorrebbero che l'introduzione fosse graduale, perché c'è una legge che ha avuto via libera alla Camera e adesso andrà al Senato, che prevede di portare al 30% la quota obbligatoria di donne presente nei consigli di amministrazione. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora parliamo di quota rosa. Non vi dico i messaggi, mi rivolgo chiaramente alla dottoressa Pusta e alla dottora De Nicola, che sono arrivati nel frattempo, perché parte qualche becero maschilista. C'è chi propone di avere un 30% di quote blu, cioè di quote di maschi, e lasciare il resto alle donne. C'è chi propone anche un 10% di quote sotto i 30 anni di età e sopra i 60 anni di età. Insomma, non vorrei che questo paese poi si regolasse per una sua incapacità a autoregolarsi con le quote, e vorrei fare l'avvocato del diavolo con ognuno di voi due, nel senso, dottoressa Pustera, lei insomma anche dentro il mondo dei commercialisti porta avanti questa battaglia, quindi il mondo dei professionisti, se mi è bastato Bob Marley, grazie, eccoci. E le chiedo una cosa, insomma, l'obiezione più forte che uno le può fare è questa: ma non è l'elemento più antimeritocratico che c'è al mondo obbligare un consiglio di amministrazione, che deve essere per sua vocazione votato alla buona gestione, al profitto, alla produttività dell'azienda che dirige, obbligare un consiglio ad avere comunque il 30% di donne? Non si rischia una distorsione fortissima su questo? Guardi, dottor Barisoni, dobbiamo dire che il disegno di legge di cui stiamo discutendo, il 2482, prevede un'introduzione temporanea di queste quote di genere, quindi soltanto per 3 rinnovi da 3 anni. Allora io credo che questo fatto salvi anche il concetto della meritocrazia. Peraltro, su questo argomento, mi consente di dire una cosa. Oggi come vengono scelti gli uomini? Con la cooptazione, quindi non sono affatto nemmeno i migliori degli uomini oggi che entrano, tra l'altro spesso ricoprendo più ruoli vanno a minare l'indipendenza, perché lei capisce che se un uomo nel consiglio di amministrazione di una banca e nel consiglio di amministrazione di un'impresa che deve ricevere soldi da quella banca, probabilmente è indipendente. Vabbè. Quindi io credo invece che la meritocrazia ci sarà di più con questo tentativo di questi 9 anni, perché le donne sono circa il 50% della popolazione italiana, mondiale. Le donne, e questo non devo dare dimostrazione perché è provato, hanno un livello culturale maggiore, quindi oggi sono preparate, per cui io credo che ci sarà un innalzamento incredibile della meritocrazia, della qualità, del merito di queste persone che andranno a sedere nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali. E quindi penso che ci sarà un ricambio della classe dirigente veramente utile e veramente importante per il nostro paese. Quindi quello che non voglio che si dica è che questa è una legge che regala qualcosa alle donne, è una legge che consente al nostro paese sicuramente di avere più potenza. Ho capito, ma mi risponda anche alla domanda sul principio di distorsione del merito. Io ho capito cosa dice lei, non è che adesso è tutto merito e con le quote diventa tutto demerito. Infatti l'osservazione che fanno alcuni al 349-238-6666, immagino anche così, legandola alla cronaca, ahimè, di queste settimane, ecco così entreranno le amanti, le belle, le figlie di, ma io la rigiro facilmente, adesso possono entrare comunque i figli di uomini, certo, gli amici dei figli e anche gli amanti, perché no, in alcuni casi. Per cui non è questa l'obiezione, però voglio dire, c'è un principio non meritocratico di fondo, questo lo possiamo riconoscere o no? Nella quota, no, nella quota in sé, che sia quota rosa, che sia come in America quota per le minoranze razziali, ma insomma... Il punto è chi andrà a riempire quella quota, se andranno, come io penso, le donne migliori, le donne più preparate, abbiamo detto prima che ci sono, perché dovrebbero far saltare il principio meritocrazia? D'altro lato io le dico una cosa, gli uomini che oggi stanno gestendo, nella maggioranza sono uomini che stanno gestendo queste imprese, quando andranno a scegliere le donne e a metterle in posti importanti per la buona riuscita delle loro intraprese, io sono sicura che sceglieranno le migliori. E quindi non credo che metteranno le amanti, le amiche, eccetera, perché è molto delicato mettere un'impresa nelle mani di qualcuno. Parliamo di consigli di amministrazione, parliamo di collegi sindacali, di società importanti, di società quotate o partecipate dal pubblico. Per cui io sono sicura invece che effettivamente andranno avanti le donne migliori e sono sicura che dopo questi 9 anni, quando la legge non sarà più efficace, terranno assolutamente le donne. E quindi penso che questa spallata sia fondamentale. La stiamo perdendo, quindi cerchiamo di recuperare la linea. Ho capito la sua posizione, devo dire che sul ricambio, sì, evidentemente sono d'accordo anche che quando tu gestisci utili dipendenti in un'azienda, difficile mettere l'amante, la battuta è facile, lo so, più facile metterla in politica, ma anche lì non dovrebbe essere così. I dati, e qui mi rivolgo al presidente dell'Adam Smith Society, Alessandro De Nicola, i dati sono oggettivamente a favore del ragionamento sulle quote, per quanto non mi convinca il principio, dottor De Nicola, perché noi abbiamo il 12% di donne manager in questo paese, la media europea è 3 volte più alta, il 33%. La Germania ha quasi 40% di donne manager, la Gran Bretagna il 35%, la Francia il 30%, ma anche la Grecia ci supera, e pensate anche la Turchia, questi sono dati di Manager Italia, in Turchia sono 22% di donne manager. Quante sono le donne nei consigli di amministrazione in Italia? Sono appena il 3% contro una media europea dell'11%, non parliamo della Norvegia che con una legge analoga è arrivata a portare le donne al 42%. Domanda che faccio a lei. Le donne dicono, attenzione, se non lo imponiamo per legge, un po' come la cintura di sicurezza, hai voglia a spiegare che bisogna usarla, che è meglio per la tua salute, tanto poi non lo facciamo noi maschi o maschietti, e quindi bisogna avere una fase, per quanto brutale, per quanto forse non meritocratica, di cambiamento radicale della mentalità. Senza la legge, senza l'obbligo non ci arriveremo mai, o ci arriveremo fra 30 anni. Allora, intanto noto che la giustificazione data dalla dottoressa si autocontraddice. La dottoressa pensa che quando gli uomini che gestiscono le aziende sceglieranno le donne, sceglieranno solo le più brave. Invece adesso che scelgono gli uomini, scelgono i più scarsi. Quindi scelgono della gente non all'altezza, o l'una o l'altra. O si sceglie sempre quelli che danno un valore aggiunto all'azienda, oppure anche quando verranno scelte le donne, verranno scelte con criteri misti. Ma questo non è nemmeno troppo importante. Quello che è importante è che questa è una scelta filosoficamente aberrante, perché la società è fatta di individui, non è fatta di categorie, è fatta di individui che si pongono all'interno della società. È economicamente inefficiente perché è contro il principio della meritocrazia, come è stato ricordato. Inoltre è regolamentarmente impossibile da giustificare, perché è molto più avvantaggiata una giovane donna che ha fatto i suoi studi ad Harvard e alla Columbia, che viene da una famiglia benestante e che è di aspetto molto gradevole, piuttosto che un povero extracomunitario che a parità di intelligenza e di preparazione è un obeso di aspetto sgradevole ed è un immigrato che viene da una famiglia svantaggiata. Allora cosa vogliamo fare? Come gli stessi SMS che ricevete confermano, vogliamo mettere una quota per le donne, ma naturalmente per le donne non svantaggiate dalla provenienza familiare, una per gli extracomunitari, una per i vecchi, una per i giovani, una per i gay. Cioè, una volta che si apre il varco a questa parcellizzazione a mosaico della società, certo, si arriva a degli effetti aberranti. Ultima cosa, empiricamente, non è affatto dimostrato che le quote portino dei vantaggi. La Norvegia, da quando c'ha il 40% di donne, e poi farò subito una precisazione però, la borsa norvegese, nonostante la Norvegia di per sé abbia una performance economica buona grazie al petrolio, è una borsa che sta nell'ultimo quartile della performance come valore di mercato, il che naturalmente, perché prevengo subito l'obiezione, non vuol dire che è il fatto che ci sono arrivate le donne che ha portato le aziende norvegesi giù. Certo. Sicuramente conferma che il fatto di aver messo le donne non le porta su. Allora, io adesso, quindi, Presidente De Nicola, l'obiezione sarebbe, o la sua analisi sarebbe più credibile se non venissimo da un paese che, quanto a presenza di donne nei CDA e di donne manager, ricordo più un paese islamico che un paese occidentale. Allora, il problema è che la società si evolve, senza che ci sia un legislatore che pensa di essere in una posizione privilegiata e che capisce lui quello da fare. E anche in Italia si evolve. Se noi vediamo le statistiche sul totale delle trentenni, ad esempio, quelle che sono dirigenti nel settore legale sono il 49,4, over 60 sono il 19,2. Tra i direttori finanziari, over 60, 5,1, direttore finanziario trentenne, 13,1. Marketing, 46%, over 60, 4,4. Anche tra gli amministratori delegati, over 60, 1,4, trentenni, 8,3. Il che è la prova provata, e potrei andare avanti, amministrazione, 43,8, over 60, è la prova provata che la società si evolve. Noi certo che scopriamo l'acqua calda se diciamo che in questo momento le donne sono meno perché la società italiana si è evoluta, se volete, in modo più lento delle altre società, in modo arretrato, possiamo dare i giudizi che vogliamo, ma il fatto è che è la società che si evolve, sono gli individui che vanno avanti, non è un legislatore. Un legislatore non ha né la capacità né la legittimità né risponde a interessi che siano interessi tali che lo mettono nella condizione di dire si fa questo o si fa quest'altro. È un attentato alla libertà e per di più drammaticamente inefficiente. Sì, io adesso per andremo troppo in là, lei fa il presidente dell'Adam Smith Society e questo è un pensiero molto liberale di una società che si autoregolamenta senza bisogno del legislatore. Io su questo in generale non sono d'accordo, penso che invece il legislatore possa aiutare, contribuire, indirizzare l'evolversi di una società in un senso o nell'altro, nel bene o nel male. Però le ho dato anche dei dati. No, ho capito, infatti dai suoi dati a me verrebbe da dire come battuta che qui il problema non è delle quote rosa, è delle quote, diciamo, senili. Cioè questo è un paese che forse dovrebbe cacciare tutta la classe dirigente, non voglio sembrare Renzi con i rottamati, cioè che ogni volta che guardiamo le quote sugli over 60 capiamo che c'è un'Italia in mano agli over 60 che però è un'Italia che appartiene a forse a prima del crollo del muro di Berlino come mentalità. Introduciamo le quote, diciamo, in cui uno a 65 anni o ha dei meriti straordinari oppure va a coltivare le rose, a fare quello che vuole, va in montagna, va al mare, ma si sposta, per non usare un'altra espressione. Dottoressa Pustella, per concludere, ha sentito però De Nicola dire attenzione, non c'è un'evidenza empirica che ci dimostri che sia meglio così, c'è un'evoluzione della società, arriveremo più tardi anche noi, ma se guardiamo i dati scorporati per chi ha 30-40 anni si vede che questa evoluzione è in corso, la legge non farebbe altro che creare un'ingabbiatura e creare, mi passi il termine, un po' di casino anche. Prego. Ma assolutamente no, assolutamente no. Anche perché dobbiamo pensare, De Nicola diceva un attentato alla libertà, ma è vero esattamente il contrario. Perché noi dobbiamo pensare che anche la libertà di impresa, ad esempio, quindi la libertà di scegliersi tutti uomini, poi se mi consente vorrei fare una battuta su quello che ha detto prima il Presidente, la libertà di impresa, dicevo, deve essere alla fine cedevole rispetto all'eguaglianza, al principio costituzionale, ancora più forte, sovraordinato, dell'uguaglianza di tutti i cittadini. Ma un'eguaglianza sostanziale, dottor Barisoni, non un'eguaglianza formale, perché noi dobbiamo passare da una Costituzione vigente a una Costituzione vivente e non lo vogliamo fare, perché come arriva un disegno di legge come questo, ecco che i conservatori, che vogliono tenere lo status quo, che non vogliono ricambio a classe dirigente, dicono no, non va bene, bisogna aspettare, ci vuole più tempo. E invece no. È così che facciamo una cosa giusta e quindi io credo che sia assolutamente da ascrivere allo Stato un ruolo di spinta della società a migliorare e a migliorare più velocemente. E credo in questo senso che l'enforcement, che il disegno di legge di cui si discute prevede, cioè sì, che se non si rispetta cade tutto il Consiglio, sia l'enforcement più giusto e più perfetto. Vabbè, che il legislatore mi fa, potesse immaginare. La battuta perché devo chiudere adesso? Però non ha dato pari tempo, dottore. Ma come no, dai. Adesso, ha dato più tempo agli uomini, certo. Ma adesso, per favore. È la verità. Ma per favore. Allora, mi faccia la battuta, guardi che poi lo vado a contare il tempo. Comunque, vada. Mi dica la battuta che voleva fare De Nicola. Ecco, la battuta, lui dice che perché oggi scelgono i peggiori uomini, io non ho detto questo, e domani sceglieranno i migliori donne, perché va riconosciuto che le donne sono molto meno corruttibili, sono molto più rigide degli uomini, in senso positivo o negativo, quindi è logico che oggi si tende a scegliere l'amico dell'amico e dell'amico, e domani invece si sceglieranno effettivamente le donne migliori, ma speriamo che passi e vedrete, fra 9 anni sarete felicissimi. Ah, ma guardi, io sono già nella condizione delle quattro rose, gliel'ho spiegato, per cui vivo benissimo lo stesso. Dottoressa, sul fatto che le donne siano meno corruttibili, non mi voglio legare alla cronaca di questi giorni, ma insomma, dai, siamo tutti esseri umani e ci sono delinquenti, corrotti, corruttibili in un campo e nell'altro. Io su questo non andrei sull'esempio un po' troppo manicheo, a mio avviso. Detto ciò, quello che ho capito, cercando di trovare un punto di caduta, di congiunzione tra lei e De Nicola, è che se proponessimo le quote sull'età, cioè via dai CDA, presidenti inclusi, tutti quelli che hanno più di 60 anni, forse vedremo anche più donne emergere in qualità dirigenziali. Grazie a ambedue, guardi che l'ho dato allo stesso tempo, abbiamo calcolato. Dottoressa, comunque capisco la sensibilità, grazie alla dottoressa Giulia Pusterla e grazie al dottor Alessandro De Nicola. Adesso parliamo di banche, se ce la facciamo. Perché parliamo di banca? Allora, l'intervista con Sawiris la mandiamo in onda domani, perché questa sera la Presidente di Confindustria Marcegaglia, il Presidente dello IOR Gotti Tedeschi, quindi una donna e un uomo, saranno a Genova con il Cardinale della CEI, Cardinale Bagnasco, uomo per forza, per discutere l'enciclica Caritas in Veritate, quella di Benedetto XVI. Il nostro Paolo Piacenza ha raggiunto Ettore Gotti Tedeschi, chiaramente non ha parlato delle vicende giudiziarie, ma gli ha chiesto insomma che cosa può uscire da questo incontro. L'economia, che è un mezzo, è diventata un fine. Non solo, ha assunto una totale autonomia morale e ha perso il suo senso per l'uomo. Uno si domanda, adesso che abbiamo imparato questa lezione, stiamo vivendo questa crisi, come stiamo reagendo verso questa indicazione scritta nell'enciclica? Ci siamo posti il problema del nichilismo? No. Ci siamo posti il problema che bisogna tornare ad apprezzare la vita umana, tenendo conto che se neghiamo la vita umana facciamo il male dell'uomo, ma anche il male dell'economia? Direi di no. Quali sono, anche in termini di risultati da conseguire, gli obiettivi di una finanza che sia attenta a questi valori e a questi principi, e di un'impresa che sia attenta a questi valori e a questi principi? Più che il ruolo dell'impresa, l'impresa alla fine è un imprenditore che sceglie, oppure è in un mercato, in questo mercato ne trova che ci sono delle aree di attrattività, lui rafforza le sue capacità prendendo un vantaggio competitivo e li opera. Però il problema per me è a monte. Se un sistema economico, come ne abbiamo visto svilupparsi o non svilupparsi negli ultimi 30 anni, si fonda soltanto sulla crescita del PIL grazie all'aumento dei consumi pro capite, che spingono l'uomo a sentirsi soddisfatto soltanto se ha, possiede e consuma, dimenticandosi di avere altri valori da valorizzare, appunto, no? Che è appunto lo spirito nichilistico della divisione tra uomo spirituale e l'uomo materiale. Se l'uomo viene solo soddisfatto questo, che cosa ha comportato negli ultimi tempi nel mondo occidentale tutto questo? E con questo quesito vi lasciamo, da Sebastiano Barisoni, uomo per Gotti Tedeschi, voleva dire l'essere umano, immagino. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata alle donne, agli uomini, ai bambini, agli anziani, alle ragazze, ai giovani. Radio 24. La passione si sente.